Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. È stata presentata lunedì a Padova, nella sede della Fondazione Lanza, la Rete Nazionale di Centri per l'Etica Ambientale. Si tratta di una rete formata da 6 realtà italiane particolarmente impegnate sul fronte dell'etica ambientale, che uniscono le loro forze per sensibilizzare e diffondere una cultura della sostenibilità e quelle che loro stesse hanno definito un nuovo umanesimo ecologico. Queste realtà sono appunto la Fondazione Lanza, ma poi anche la rivista Aggiornamenti Sociali dei Gesuiti, i 2 centri di etica ambientale di Bergamo e di Parma, il monastero di Siloe di Poggi del Sasso in provincia di Grosseto e il centro studi sulle culture della pace e della sostenibilità dell'Università di Modena. Nel corso della presentazione della rete abbiamo avuto modo di approfondire il suo scopo con Chiara Tintori di Aggiornamenti Sociali. Cosa significa etica ambientale? Sì, oggi parlare di etica ambientale vuol dire rendersi conto che tutte le problematiche, le questioni ambientali che noi sperimentiamo, dal cambiamento climatico alla desertificazione, a tutte le problematiche, l'inquinamento atmosferico, ecco, tutte queste hanno una ricaduta e d'altro canto un'origine che riguarda la relazione con l'uomo, quindi la dimensione antropologica. Vuol dire ripensare al rapporto uomo-natura in una visione più ampia, in una visione antropologica, in una visione che riguarda principalmente anche la vita buona, quella che può essere l'azione dell'uomo nei confronti della natura. Non a caso voi parlate di umanesimo ambientale. Esattamente, perché riteniamo che la via maestra anche per affrontare, speriamo, per risolvere l'emergenza ambientale oggi, sia quella di intrecciare la custodia dell'ambiente con quella delle relazioni interumane e quindi relazioni tra persone. Non è un caso che tutte le questioni ambientali si snodino su un periodo che coinvolge anche le generazioni future. Ecco perché l'attenzione al nuovo umanesimo vuol dire anche pensare a delle nuove relazioni oggi, ma anche prestare attenzione a coloro che un domani abiteranno la nostra terra. Quali possono essere queste azioni? Voi avete anche, al di là di iniziative di formazione, di promozione, ci sono delle iniziative che si stanno realizzando nel mondo che proponete, diciamo, come dei punti da seguire, insomma, come degli esempi? Ma sì, noi stiamo cercando da un lato di proporre dei percorsi di studio e di approfondimento sulle singole materie, che possono essere appunto i cambiamenti climatici, l'energia, la sostenibilità. D'altro canto, al nostro interno stiamo facendo decollare una serie di iniziative, ad esempio in vista di Expo 2015 che si terrà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre dell'anno prossimo. Questo per poter far dialogare su queste tematiche, sulla tematica del cibo, del nutrire il pianeta, dell'energia, realtà appartenenti a mondi differenti, dall'accademico alle associazioni imprenditoriali, alle organizzazioni non governative, proprio per interrogarci, sederci a un tavolo e cercare di comprendere quali sono le sfide oggi e soprattutto con quali strumenti affrontarle insieme. Adesso parliamo anche della rete, che da cui nasce tutto questo. Si può dire in due parole che cos'è questa rete e quali sono le prossime iniziative che farete? Sì, la rete nasce dalla necessità di mettere appunto in rete, da far lavorare insieme alcuni centri di etica ambientale molto simili tra loro, come quello della diocesi di Parma e della diocesi di Bergamo, che hanno però al loro interno anche componenti istituzionali. E la Fondazione Lanza, che oggi ha ospitato la conferenza stampa di presentazione e di lancio della rete, il Centro di Studi sulle Culture della Pace e sulla Sostenibilità dell'Università di Modena, il Monastero di Siloe in provincia di Grosseto, un monastero benedettino che si interroga su queste tematiche, infine Aggiornamenti Sociali, la rivista la cui redazione faccio parte, Rivista dei Gesuiti di Milano. Per quanto riguarda le nostre attività, al momento siamo concentrati Innanzitutto nel presentarci all'esterno, nel farci conoscere nella realtà nazionale, dopodiché stiamo mettendo a punto, oltre alla carta di intenti che trovate sui siti di tutte le nostre associazioni sottoscriventi, stiamo mettendo a punto un percorso aperto per accogliere quegli altri enti e quelle altre realtà che già fanno ricerca in tematiche ambientali. Ci fermiamo per una breve pausa, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Affondo negli ostacoli, 100 passi tra di noi, nutro la menzogna sull'impossibilità di tornare a respirare ancora. Non sarà il rimorso trascinandosi il peso di un errore a decidere per me. Se improvviso al piano una canzone, ricomincio da me. Qui non servono solo parole d'amore, lo faccio per te. All'alba di ogni partenza c'è sempre un finale, un finale cos'è? È solo un dettaglio in un cielo stellato di te. Improvviso un viaggio con la mente nel paradiso delle idee. Alcune sono rimaste, altre si consumano a fuoco lento in prescrizione. Ricomincio da me. Qui non servono solo parole d'amore, lo faccio per te. All'alba di ogni partenza c'è sempre un finale, un finale cos'è? È solo un dettaglio in un cielo stellato di te. Io che ero parole di vetro, la sono canzone per te. Io che restavo in disparte a guardare la vita scivolare con me e non capivo il perché. Ricomincio da me, perché l'unico salto da fare per te non è l'ultimo, l'ultimo, non è l'ultimo, non è l'ultimo, non è l'ultimo, l'ultimo. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Stavamo parlando della presentazione della nuova rete nazionale di centri per l'etica ambientale. Ascoltiamo adesso da Roberto Lanzi l'esperienza del monastero di Siloe, dove è monaco e responsabile del centro culturale San Benedetto. Ecco, la nostra curiosità era capire perché c'è un monastero all'interno di questa rete nazionale di centri per l'etica ambientale. Per noi il monastero era una cosa, come dire, normale, ovvia, aderire ad una realtà del genere, perché noi, con la nostra specificità di monaci, siamo impegnati su questi problemi. Dicevo prima, appunto, impegnati in una vita spirituale, intendendo per vita spirituale una vita tutt'altro che immateriale. Quindi tutti i problemi che concernono, appunto, i temi, i problemi della contemporaneità ci riguardano e il monaco deve essere presente, non può fuggire dal mondo. Quando si parla del monaco che persegue la fuga mundi non è fuggire dalla problematicità del mondo o la contemporaneità, ma essere in fuga dalla mondanità. Quindi farsi carico dei problemi della persona, i nostri problemi in prima battuta, il problema del rapporto con gli altri e poi dell'intorno e poi dell'ambiente. occorre ricostruire delle identità. Se dovessi qualificare il monastero di Siloe, usando una parola forse un po' troppo eccessiva, ma una scuola rigenerazione, una scuola per rigenerare il volto dell'uomo sfigurato dal modello di sviluppo nel quale siamo tutti immersi. Allora questo modello di sviluppo, che a dir poco è in crisi e è insostenibile, bisogna in qualche modo ripensarlo. E i monaci nel corso della storia hanno sempre ripensato anche i modelli economici, avendo davanti però quali sono i bisogni reali dell'uomo. Insomma, la vecchia domanda di Dio, uomo, dove sei? Oggi potrebbe essere declinata in questo modo: uomo, in che condizione sei? Cosa cerchi? Dove vai? Cosa fai? Voi quindi date cercate di dare questa risposta quindi sia alle esigenze dell'uomo. So che molti vengono da voi, soprattutto dalle città, in cerca proprio di questa rigenerazione, ma nello stesso tempo fate anche un'attività di studio in qualche modo, di promozione di buone pratiche anche per esempio nell'architettura sostenibile. Sì, noi vogliamo testimoniare uno stile di vita che riguardi il livello delle relazioni interpersonali e il modo poi di gestire i problemi concreti della realtà. Quindi anche il modo di costruire. Abbiamo costruito ex novo un monastero con i criteri dell'architettura sostenibile e dell'architettura, della bioarchitettura. Stiamo gestendo dei terreni e quindi con tutto il rispetto un'agricoltura biologica, quindi ponendoci il problema della difesa delle biodiversità o dell'utilizzare semi antiche anziché semi manipolati, insomma un certo modo di produrre avendo davanti ciò che fa bene all'uomo. E spesso le merci non fanno bene all'uomo, magari fanno bene alle lobby che producono le merci. Invece il bene, cos'è il bene che fa bene all'uomo? Ecco, su questi temi noi ci interroghiamo e nel nostro piccolo diamo una nostra piccola testimonianza. Ma il campo principale del lavoro nostro è il campo delle relazioni interumane. L'antropologo francese Auger affermava che le città di oggi sono delle strutture non luogo, intendendo non luoghi relazionali, e questo è un assurdo, nel senso che la città di per sé, la piazza, insomma, è il luogo dell'incontro. Oggi viviamo luoghi del non incontro, luoghi in modo sofisticato, strutturati, organizzati, ma dove ognuno è solo. Ecco, e in questa solitudine ci sono dei drammi che appunto vanno guariti, affrontati, vivendo in modo diverso le relazionalità umane. Grazie. Ci avviamo ora alla conclusione della trasmissione, ma non senza avervi dato alcune brevi notizie. Si svolgerà in Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto domenica 12 ottobre l'edizione 2014 del Festival delle DOP Venete, una kermesse promossa dalla Regione Veneto e da Veneto Agricoltura Europe Direct Veneto, dedicata ai prodotti dell'agricoltura regionale riconosciuti dai marchi di qualità dell'Unione Europea. È ricco il programma della manifestazione, che ha un prologo sabato 11 alle ore 9.30 presso l'Istituto Alberghiero Maffioli con il convegno Le denominazioni di origine alla conquista del mercato. Domenica 12 il clou dalle 10 alle 19 con i prodotti a denominazione protetta della nostra regione, che faranno bella mostra di sé, proposti dai consorzi di tutela del Veneto. L'ingresso è gratuito. Infine diamo una notizia di un concorso fotografico lanciato dalla FAO in collaborazione con la rivista National Geographic in vista della seconda conferenza internazionale sulla nutrizione, che si terrà a Roma dal 19 al 21 novembre. Il concorso è volto a sollevare l'attenzione su come e perché la buona nutrizione è importante, tanto per le persone che per le società. Le foto vanno inviate entro le ore 12 del 16 ottobre 2014 e devono illustrare due concetti chiave: uno, la nutrizione è importante in molti modi nei paesi in via di sviluppo come nei paesi industrializzati, e, secondo concetto, la buona nutrizione comincia dai sistemi agricoli che producono il nostro cibo e che devono essere improntati a fornire prodotti salutari e sostenibili.